Voglio che vi rendiate conto di tutti i suoni che provengono dall'esterno della stanza. We need must have the precious. Thank you. Questa seconda parte di Eclettica è cominciata in questo modo, con un ulteriore spezzone, oltre a quello già sentito nella prima parte, dalla seconda parte della trilogia, scusatemi la ripetizione, cercavo un'alternativa parte, ma non è venuta in mente nessuna nel giro di pochi secondi. Comunque uno spezzone dalla seconda parte della trilogia, di cui la scorsa settimana invece ci eravamo sentiti la prima parte. Quindi siamo su The Two Towers per quanto riguarda il film. Poi la musica arrivata è quella che, grazie alla Ghost Records, ci portano i Ronin, con un album che a me, a parte la S finale che qui manca, ha fatto venire in mente subito i Van der Graaf Generator, dal punto di vista solo di un ricordo personale. Vi ricordate Lemmings dei Van der Graaf Generator? Sto parlando perlomeno agli over 35 più o meno. Comunque si chiama Lemming, l'album dei Ronin, che arriva a 2 anni di distanza dall'album di debutto omonimo. È una delle tante creature a cui partecipa Bruno Dorella, in questo caso lui è autore di quasi tutti i brani dei Ronin, che ora si sono stabilizzati in una formazione a 4, Bruno Dorella compreso, che nel passato era presente nell'underground italiano, per esempio, per fare solo un nome, all'interno della band dei Volfango, e attualmente, oltre all'avventura Ronin, si cimenta anche perlomeno in altre due, gli Ovo e i Bachi da Pietra. Noi da Lemming ci siamo ascoltati I Pescatori Non Sono Tornati, la traccia che lo apre. È periodo di omaggio a David Bowie, arrivato ai 60 anni, e chi l'avrebbe mai detto, eh? È arrivato ai 60 anni, ce l'ha fatta ad arrivarci vivo, beh, d'altronde ormai da parecchio tempo che vive molto molto controllato. E quindi noi ci stiamo ascoltando compilation italiane o cover da dischi che non sono compilation, che comunque rendono omaggio in questo periodo al cosiddetto Duca Bianco. Per esempio, io vado a riprendere Megan Hickey, che si presenta con la sua lap steel guitar e lo pseudonimo Last Town Chorus, dal suo album che è uscito qualche mese fa, è infatti presente da un po' di tempo, da qualche mese a questa parte, di tanto in tanto nelle playlist di Eclettica, album dal titolo Wire Waltz, con la cover di Modern Love. Walks on by, it gets me. puts my faith in God. La mattina del 3 novembre 1948, nel punto in cui la strada di Lemboeng, uno dei villaggi di Tassenberg, esce dal bosco che degrada lungo il vallone del Tuanbach, il gendarme di Tuan, Alfons Klenin, trovò una Mercedes azzurra ferma sul ciglio della strada. C'era nebbia, come spesso accade nei mattini di tardo autunno. Klenin era già andato oltre, ma poi si decise a tornare indietro. Passando, aveva gettato una rapida occhiata attraverso i cristalli appannati e aveva avuto l'impressione che il conducente se ne stesse abbandonato sul volante. Pensò che l'uomo fosse ubriaco. Era una persona normale, Klenin, e ricorreva sempre alle spiegazioni più ovvie. Perciò decise di affrontare lo sconosciuto non in veste professionale, ma così, da semplice amico. Questo era l'incipit di Il giudice e il suo boia, di Friedrich Dürrenmatt. I'll give you a French that baby. Just a little. Together, my Lord Sauron, we shall rule this Middle Earth. Two of us. Well, I request you be my friend. We'll spend some time taking drugs in a bar, a home in a jar, friend. But you're supposed to be. Be my friend, 'cause you're supposed to be my friend. Yo, start acting like it. Some dogs, but you're supposed to be. E dopo esserci ascoltati anche il secondo incipit, vi anticipo che saranno quattro, di Friedrich Dürrenmatt, ci siamo ascoltati un po' di rock sanguigno, a partire da un disco che uscirà il 29 di gennaio, grazie alla Sleeping Star. L'album si intitola Monte Cristo, esattamente come il nome della band, che è una band romana che si è fatta produrre il disco da Tony James, produzione artistica dell'ex Generation X, ex Sister of Mercy, ex Sig Sig Sputnik, e che è attualmente impegnato anche assieme all'ex Clash Mick Jones nel progetto Carbon Silicon, di cui penso avrete letto. French Kiss è il brano che ci siamo ascoltati da parte della formazione romana, per poi ritornare sulla traccia di provenienza britannica grazie alla Rough Trade Records. 1990s è il nome della band con You Are Supposed to Be My Friend. Ed ora vi devo parlare di un disco la cui musica è assolutamente interessante, ma sulla musica vi farete voi da soli il giudizio, ve lo state per fare. Quello che io giudico molto molto molto bello è la copertina, la foto sia la foto del fronte che la foto del retro di questo disco. Fra l'altro sono foto che così riportano le note, sono state scattate durante gli scontri di Reggio Emilia del 1° luglio 1960, scontri di cui non so assolutamente nulla. Magari anche intrigato appunto dalla grafica andrò a cercare di informarmi. Disco che esce per la Home Sleep Music, che contiene al suo interno 9 tracce. Noi ci ascoltiamo la numero 6, Broken By. We'll be right back. Eclettica, fine della seconda parte.